Fabrizio Intonti. So che molti di voi, soprattutto in questo periodo dell'anno, hanno in mente una sola data, che è quella dell'inizio delle meritate vacanze, il momento per staccare la spina, per ricaricarsi, per infrancarsi. Però so anche che alcuni di voi sanno che per ricaricarsi davvero, per fare delle esperienze, per rinascere, ci vorrebbe qualcosa di più, ma anche qualcosa di diverso. E quindi, in mezzo a questi pensieri, cominciano a spuntare due parole dal suono veramente affascinante, e le due parole sono anno e sabbatico. Senti come suona bene. Anno sabbatico, una cosa che tutti evocano e pochissimi fanno, una cosa che tutti vorrebbero fare, ma poi cominciano a dire: ma con quali soldi, ma come faccio? E poi nel frattempo, se succede qualcosa. Però senti come suona bene. Questa è la tentazione di oggi, anno sabbatico. Se l'avete fatto, se ci state pensando, o anche solo per dirci dove andreste voi, cosa fareste con un anno sabbatico, il numero è sempre quello, 800 24 0024. Senti come suona bene, anno sabbatico. 10 minuti dopo le 4 del pomeriggio, io sono Achille Corea, questa è la quarta puntata di Giro di Vita, il programma che parla delle persone che hanno cambiato vita o che hanno inventato un nuovo inizio. Questa è una tentazione, quella di oggi, che è un po' più forte, se vogliamo, rispetto alle cose di cui abbiamo parlato finora, perché abbiamo parlato finora di gente che fondamentalmente ha inventato un nuovo lavoro, ha cambiato attività, però è anche l'unica che ha, oltre a una data di partenza, anche un ritorno, come l'anno sabbatico, il viaggio in questo caso di Giordana Querceto. Benvenuta. Buon pomeriggio. Allora, Giordana, dove sei adesso intanto? In questo momento mi trovo a Barcellona, di passaggio solo un mese, però vivo in Germania già da quasi 2 anni, un anno e mezzo pieno. Qual è stato il tuo anno sabbatico? Allora, io sono partita a settembre del 2007 e sono rientrata in Europa, in Spagna, nel maggio del 2008, quindi circa 8 mesi di viaggio. Perché? Cioè, qual era la cosa che cercavi in questo lungo viaggio? Io penso che innanzitutto sono un amante dei viaggi da sempre, però l'esperienza di fare un viaggio lungo dopo aver letto di tutto sulla letteratura di viaggi eccetera eccetera, sapevo che poteva essere un'esperienza forte. E in quali paesi sei stata? Dicceli così come ti vengono. Io li so a memoria in ordine cronologico, perché la domanda mi viene fatta tante di quelle volte, quindi te li dico in Vai. Ordine cronologico. Allora, io sono stata in Giappone, Cina, Vietnam, Thailandia, Malesia, Cambogia, Indonesia, Australia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Isola di Pasqua, Cile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perù, Guatemala, Messico e Cuba. È il tabellone dei mondiali, non è un via. Senti, io mi sono tolto un attimo la cuffia e dalla finestra degli studi di Radio 24 a Roma ho sentito alzarsi dal pubblico una domanda: quanto hai speso? Allora, io ci tengo molto a parlare di questi costi, perché la gente pensa che costa veramente una cifra assurda, invece non è così. Un viaggio come questo a me è costato come un'utilitaria, praticamente. Io ho speso in totale quasi 17.000 euro, dove 4.500 erano tutti i voli. 4.000 euro di voli? Se ho capito, 4.000 euro di voli? 4.500 di voli, sì. Che è poco, sì. Diciamo, per tutti questi voli sembra, cioè non è una cifra così, diciamo, è uno scooter, però non sembra poco. Hai fatto qualche meccanismo, hai usato qualche meccanismo particolare per... Sì. Esistono due alleanze, la Star Alliance e la One World, che escono biglietti RTV, Around the World. E si comprano pacchetti, ogni pacchetto ha determinate miglia, penso che il pacchetto che comprai io era di 28.000 miglia, si distribuiscono sul territorio seguendo un'unica direzione e praticamente si costruisce l'itinerario, e se si dividono poi questi 4.300 qualche cosa euro che pagate il ticket generale, viene poi una cifra irrisoria per destinazioni come la Nuova Zelanda o la Polinesia Francese, per Senti, esempio. Senti, dimmi una cosa, ma tu in questi 8 mesi non hai proprio lavorato? Tu che lavoro facevi prima di partire e dopo? Sì, io sono architetto. E in questi 8 mesi non hai fatto niente relativo al tuo lavoro? Allora, io ho intervistato degli architetti famosi in tutte le capitali che ho visitato, ovviamente previa lettera di presentazione prima di partire, e mi hanno accolto tutti, devo dire la verità, molto molto bene. E poi, insomma, da poco adesso è uscito il libro della raccolta di queste interviste, dove il tema è la sostenibilità in architettura. È uscito da poco con la Clean Edizioni, si chiama Architecture. E quindi ti sei comunque inventato un modo per dare un'utilità a questo giro del mondo. Prima di proseguire, di parlare di delle cosine un po' più pratiche, facciamo un momento alto. Il nostro Fabrizio Intonti, come un sommelier dell'immaginario, ha abbinato alla tua storia uno spezzone di un grande film del passato. Che cosa vedete qui? Cioccolatini a stampo. Il guscio è di nero al 70%. Il ripieno pralinato di nocciole. Secondo me c'è anche un goccio di rum. Io vedo uno sì, no, è uno, abbiamo sbagliato film, ma capita, come quando vai in un multisala, volevi vedere, non so, un film d'azione, invece vedi una commedia romantica. Questo è il film giusto. Bene. Terra ferma. Forse noi siamo i primi turisti che hanno dopo la guerra. Tanner, noi non siamo turisti, siamo viaggiatori. Ah? Ma che differenza c'è? Un turista è quello che pensa al ritorno a casa fin dal momento che arriva, Tanner. Laddove un viaggiatore può anche non tornare affatto. Intendete dire che io sono un turista? Sì, Tanner. E io una via di mezzo. E questo era Il tè nel deserto di Bertolucci, la differenza tra il turista e il viaggiatore. Tu ti sei sentita turista o ti sei sentita viaggiatrice? Ma io mi sono sentita probabilmente entrambe le cose. E c'è questa moda oggigiorno in cui la parola turista è una parola quasi peccaminosa. Questo povero turista, questa povera classe di viaggiatori che ha delle settimane, pochissime settimane all'anno, e può viaggiare poco, è quasi, insomma, oltraggioso dire turista. Io mi sono sentita entrambe le cose, ho fatto un viaggio lungo per cui mi sono sentita viaggiatrice, ma poi ho fatto anche dei circuiti più o meno turistici, perché insomma conoscere la cultura di un paese significa anche visitarne poi i musei, l'archeologia, l'architettura, che ricordiamo insomma è il tuo campo. Io credo in 8 mesi ci possono essere anche degli imprevisti, delle situazioni che non avevi preventivato. C'è stato un momento in cui c'è stata una vera difficoltà, hai pensato che non ce l'avresti fatta, Guarda, sei uscita fuori budget, che ne so, cose del genere? Ma no, perché poi insomma ci sono paesi in cui si spende di più, paesi in cui si spende di meno. Ci sono stati un paio di casi simpatici sull'isola di Pasqua: nonostante avessi le 4 carte di credito, non funzionavano col bancomat, con l'unico bancomat presente sull'isola, e quindi mi hanno fatto tutti credito. Poi ho dovuto fare gli assegni, ho dovuto fare insomma i bonifici. Ecco, ho imparato che sull'isola di Pasqua c'è un bancomat, un'informazione che non avevo. Importante. Senti, ti ha cambiato la vita questo anno sabbatico? Ti è rimasto qualcosa di concreto, di importante? Diciamo che il viaggio fu galeotto, perché poi ho conosciuto quello che nel mese scorso è diventato mio marito. Ah, vabbè, c'è sempre. Cercate no, l'uomo. Sì, è un'esperienza veramente ricchissima a tutti i livelli, però soprattutto a livello sociale, per gli intrecci con le persone che si possono appunto creare. Perfetto, ci lasciamo con 2 consigli per noi. La valigia e la zavorra. Allora, Giordana, contribuisci a questo piccolo quadernino del cambiatore di vita, che brutto termine, che stiamo creando in questa trasmissione. Dici una cosa che bisogna portarsi dietro, una cosa che bisogna abbandonare, secondo la tua esperienza, in un anno sabbatico. Ma sicuramente io ho portato dietro un buon diario e una buona macchina fotografica, fondamentali. Sembra banale, ma è ovvio che si debbano portare. Per il resto molto molto scarso l'abbigliamento, cose molto leggere, di cotone dappertutto, e poi ho portato un laptop che mi è servito tantissimo. Cosa bisogna, diciamo, lasciare con tranquillità a terra? È la vanità, non c'è spazio per il tacchi a spillo, non c'è spazio per tutto il trucco, non c'è né tempo né spazio per queste cose, quindi i cambi di vestiario, lasciare a casa forse un po' di vanità. Se di lo vanità. Segnino le ascoltatrici, ma non solo. Grazie Giordana, è stato un piacere averti, anche perché, e lo dico con piacere, tu sei stata una delle prime a proporre la tua storia tramite la nostra pagina su Facebook ed è stato un piacere raccoglierla. Grazie Giordana, noi continuiamo con il nostro giro di vita. E se lo facessi io? E vabbè, e se lo facessi io? Perché il problema è che a me sembra che l'anno sabbatico, che è una cosa che c'è nel linguaggio comune, sia in realtà anche una cosa però che non appartiene alla nostra cultura, non so, poco italiana. Eppure noi abbiamo trovato una persona che di anni sabbatici si occupa anche in maniera seria e ha scritto anche un libro, è Riccardo Camerini al telefono con noi. Buongiorno. Eccoci, autore di un libro che si chiama Mollo tutto e parto. Esatto, Mollo tutto e parto, un po' provocatorio, però il tema è l'anno sabbatico. Bisogna attirare l'attenzione. Tu l'hai fatto un anno sabbatico? L'ho fatto due volte. Lusso. L'ho fatto la prima volta, sì, più o meno. L'ho fatto la prima volta dopo un paio d'anni che lavoravo e una seconda volta dopo circa 5-6 anni di lavoro. Quindi università, lavoro e poi mi sono chiesto se era quello che volevo fare oppure se avevo la possibilità, il tempo, lo spazio per concedermi un po' di tempo per me, insomma. Che lavori hai lasciato? Che lavori facevi e che hai potuto lasciare per fare l'anno sabbatico? Il primo, ho lasciato il mitico lavoro italiano, cioè la banca, per cui io, una delle esperienze che posso così permettermi di vendere proprio psicologicamente il lasciare una sicurezza come quella che è considerata la banca. Scusa, la domanda però qui è spontanea, hai lasciato il lavoro in banca, l'hai ritrovato? Sì. Non in banca. Ah, ecco, quindi no, l'hai lasciato lì e ovviamente l'ho quando sei tornato. È rimasto lì e da qualcun altro. E al ritorno come, cioè, perché uno pensa alla partenza, pensa anche al ritorno. Al ritorno cosa hai fatto? Al ritorno la prima volta sono rientrato causa lavoro, perché noto che quando meno uno cerca il lavoro, più il lavoro lo insegue. Quindi è una cosa che poi facendo l'anno sabbatico ci si ritrova, secondo me. Il lavoro mi ha fatto ritornare in Italia. Secondo, quindi l'hai cercato. Secondo la tua esperienza, ti faccio proprio un paio di domande pratiche. Come ci si prepara? Quanto ci mette uno a prepararsi a un anno sabbatico? Qualche mese ci vuole, nel senso che l'idea di partire è una cosa di pancia, no? Una sera uno viene in mente. Poi c'è tutta una fase organizzativa necessaria per la parte economica, a meno che uno è ricco, io non sono ricco, non lo sono mai stato, mi sono pagato gli studi per dire. E poi c'è tutta una parte di organizzazione pratica, di lasciare il lavoro, calcolare quanti soldi si hanno da parte, per quanto tempo si può star via e se i soldi non bastano cercarsi un lavoretto via. Quali sono i lavoretti, ad esempio, tu che hai fatto? Dimmene uno. Ah, uno tipico, facilissimo, abbastanza semplice da trovare negli ostelli. Io ho viaggiato per ostelli, quindi ho notte in ostelli che costano poco, ci si conosce tra viaggiatori, quindi è un bellissimo modo di viaggiare e conoscere persone. E poi spesso cercano persone che aiutino a pulire i bagni, a sistemare i letti e danno spesso vitto e alloggio, pagato a seconda delle ore che uno lavora. Perfetto, io so che ci sono tanti altri consigli nel tuo libro, che è Mollo tutto e parto, grazie a Riccardo Caserini e continuiamo a sentire invece un po' di persone che so che stanno chiamando l'800 24 00 24. Allora, io vorrei sentire Daniele che ci ha chiamato. Ah no, scusate, ho sbagliato io a leggere, ma mancanza mia. Ilario, perché ha una storia che invece abbiamo cercato noi. Ilario, pronto, ci sei? Ciao ragazzi, sì, ci sono. Ilario, dove sei? Sono a Dawson City nel Canada, nel Klondike praticamente. E su cosa sei? Cioè, su che mezzo di locomozione sei? Ok, qui davanti a me ho una Vespa stracarica di bagagli, una Vespa del 70, sto viaggiando con una Vespa del 70, 1970, un po' vecchiotta. Ecco, perché noi ti abbiamo trovato tramite il tuo sito che è vespanda.com, perché tu hai preso un anno e mezzo sabbatico, sei stato largo. Esatto, con molta variabilità, più o meno i mezzi sono quelli, e l'intento è quello di fare tutto il giro del continente americano. sono partito da New York un mese e mezzo fa, sono arrivato a The Doors, Prudhoe Bay, che è praticamente il top dell'Alaska, dove più non si può andare, e adesso voglio scendere ad Ushuaia e ritornare poi a New York. Per quanto tempo ti sei preparato per fare questa cosa? Io ti dico, mi ha attaccato questa idea per 2 o 3 anni, nel senso me ne sono prima convinto veramente che volevo fare una cosa del genere, perché poi magari uno può pensare no, è una pazzia, non la faccio, poi ritratta tutto, no, invece io l'ho pensata per un po' di tempo e poi niente, fisicamente e in pratica l'ho preparata in 6-7 mesi, ecco. Mi piace il concetto dell'idea mantecata. Un attimo dimenticando l'italiano, sì. Perdonate. No, ma era bellissima come immagine. Quanto hai messo da parte per fare questa cosa? Io ho messo da parte 30.000 euro, spero che mi bastino, non è una cifra elevata, perché magari uno dice 30.000 euro, No, il problema è che comunque sia, stando via 2 anni, più o meno meno di 40 euro devi spendere, quindi qua negli Stati Uniti non è facile spendere meno di 40 euro. Scusa, $40. Dimmi una cosa alla quale hai rinunciato per mettere da parte questi soldi. Cosa ho rinunciato? Io sono sempre stato abbastanza parsimonioso, non ho mai comprato, ecco, per esempio una macchina. Io non ho una macchina, ho 28 anni, però non mi sono mai concesso il lusso di una macchina. Non hai una macchina? Sempre girando in verso, sì. Quindi ma è uno straordinario argomento di conversazione. E Ilario, noi ti richiameremo prima o poi, perché è troppo bella questa cosa, quindi credo che nel corso del programma ci risentiremo. Buona Vespa, buon viaggio. Ok, saluto a tutti. Ok, e ce l'abbiamo ancora, Daniele? Pronto? Pronto, Daniele, sono io. Eccomi, scusa l'errore nel nome. Tu hai fatto un anno sabbatico cambiando lavoro, ho capito bene? Sì, io facevo il muratore e poi ho avuto un diverbio, chiamiamolo così, con il principale e uno con mio padre, che poi sono la stessa persona. Ecco, capita. E gli ho detto, senti, per un po'... arrangiati. E poi sono andato via un annetto in Egitto a fare la guida subacquea, a istruttore sub. È stato un anno bellissimo, un anno di vacanza. Perché sei tornato? Cioè, perché sei tornato dopo l'anno sabbatico? Guarda, era già previsto? Che questa sia la domanda, che me l'hanno fatta questa domanda un migliaio di volte, perché sei tornato? Ed è la stessa domanda che mi facevo io tutti i giorni che sono in cantiere a lavorare. Però lo era già previsto, io sono partito sapendo che sarei dovuto tornare, sai, l'azienda di famiglia, quelle cose lì, sapevo che sarebbe stato un anno, una parentesi, chiamiamola così. E te la sei goduta così? Fino in fondo, nel villaggio 500 persone che arrivavano e venivano ogni settimana, è stato bellissimo. Grazie Daniele per questo racconto e per questa emozione. Stefano, pronto? Pronto? Eccoci, il tuo anno sabbatico. Il mio anno sabbatico me lo comincio a settembre, il mio anno sabbatico. Mi sono messo in quadro da buon manager e tu mi faccio un anno dove non faccio praticamente nulla. E scusa, che hai messo da parte i soldi però? Dai, dopo 25 anni di mercato ho potuto mettere qualcosina da parte, la famiglia a posto, a parte che sono solo, perciò ho detto vado, prendo e vado. Non hai un programma? Cioè non sai? Per il momento no, però devo pianificare. Parto e metto tutta una valigia e gironzolo un po' in giro per l'Europa, vedo un po' cosa mi porta. Ma girare per l'Europa, c'è un buon programma. Grazie Stefano per questa altra emozione. Noi andiamo in finale perché comunque abbiamo esaurito il tempo. Allora, io intanto vi ricordo una cosa che noi vogliamo sapere da voi questa settimana: qual è la cosa dalla quale scappate, qual è la cosa che vi fa venire voglia di cambiare vita. Scrivetecelo a gerodivita@radio24.it e noi torniamo domani. Io saluto Fabrizio Intonti che mi accompagna in questo viaggio, io saluto Valerio Rocchetti, con me Achille Corea, l'appuntamento è a domani. Ed è stato bello oggi parlare di questo anno sabato sabbatico, perché secondo me è bello anche solo pensarci. Uno si mette lì al tavolino, si fa due conti, pensa dove vorrebbe andare, pensa come impiegherebbe quel tempo, vede se davvero si può fare. E magari uno non lo fa, però senti come suona bene. Anno sabbatico. A domani! Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria. 828 1111.